prevalendosi non poco della sua eleganza, ed essendo in vero aitante nella persona, questo profuso parlatore attendeva ora ai suoi abiti con considerazioni alquanto accalorate in merito ai subiti capricci dell'atmosfera, mentre la brigata prodigava i suoi encomi al progetto da lui avanzato. Il giovine gentiluomo, amico suo, ancor pieno di letizia per un'avventura che era gli capitata, non poté tenersi che non la dicesse al più prossimo vicino. Mister Maligan, che ora posò l'occhio sulla tavola, chiese a chi fossero destinati quei pani e quei pesci, e vedendo il forestiero, fecegli civile reverenza e disse: «Di grazia, signore, vi è forse mestieri di un aiuto professionale che stia in noi di darvi?» Quegli, all'udir la profferta, lo ringraziò di tutto cuore, mantenendo tuttavia la dovuta distanza, e rispose d'esser venuto là per una dama, ora residente nella casa di Horn, che trovavasi in stato interessante, meschinetta, per le doglie della maternità, e quivi emise un profondo sospiro, onde sapere se il lieto evento si fosse già verificato. Mister Dixon, per cambiare argomento, prese a chiedere allo stesso Mister Mulligan se la sua incipiente ventripotenza, per la quale scherzosamente lo riprese, già importasse una gestazione ovoblastica nell'utricolo prostatico o utero mascolino, oppure fosse conseguenza, come nel caso del noto medico Mr. Austin Meldon, di un lupo nello stomaco. Per tutta risposta, Mr. Mulligan, messosi fragorosamente a ridere delle sue brache, si batté bravamente sotto il diaframma, esclamando con una buffa e mirabile imitazione di nonna Grogan, la più eccellente creatura del suo sesso, sebbene sia un peccato che sia una baldracca: «È questo il ventre che mai si incinse di un bastardo!» Questo lazzo, oltremodo arguto, rinnovò la tempesta di gaiezza, sì che l'intera stanza fu percorsa dalla più violenta agitazione provocata dall'allegrezza. Il ciarliero burlone avrebbe insistito in quella sua felice imitazione se non fosse stato per un certo trambusto nell'anticamera. A questo punto l'uditore, che altri non era se non lo studente scozzese, un certo tipetto eccitabile, biondo come la stoppa, si complimentò con grande vivacità di modi col giovin signore e, interrompendo il suo dire al punto saliente, dopo aver sollecitato il suo dirimpettaio con un cenno cortese ad aver la bontà di passargli una bottiglia di cordiale, con al contempo un moto interrogativo della testa, un intero secolo di educazione raffinata mal avrebbe potuto metter capo a un gesto sì elegante e preciso, da cui non andò disgiunto un altro moto equivalente ma contrario della bottiglia, chiese al narratore, con quel massimo di semplicità che le parole consentivano, se poteva essergli cortese di una coppa. «Mais bien sûr, nobile forestiero», disse egli gaiamente, «e mille compliments, vi è lecito e alla buon'ora. Mancava solo questa coppa a coronamento della mia letizia. Ma, cielo misericordioso, se sol mi rimanesse una crosta nella bisaccia e un sorso d'acqua dal fonte, mio Dio, me ne terrei pago, e il mio cuore ancora mi suggerirebbe di inginocchiarmi sulla nuda terra a render grazie alle potenze superne per la felicità accordatami dal datore di tutto ciò che è buono». Ciò dicendo accostò la coppa alle labbra, ne tolse un sorso generoso, si lisciò i capelli e, dischiusosi il seno, fuorne produsse un medaglione appeso a un nastro di seta, immagine cara che gli era vicina al cuore dal dì che la mano di lei vi aveva vergato alcune parole. Mirando le dolci sembianze con un mondo di tenerezza: «Ah, monsieur», diss'egli, «l'aveste voi vista come me con questi occhi, in quell'attimo conturbante con la sua graziosa camicetta e il berrettino nuovo da coquette, un dono per il dì della sua festa, come essa stessa ebbe a dirmi, in tal ingenuo disordine, con così struggente tenerezza, Sulla mia coscienza, fin voi, messie, sareste stato spinto da naturale generosità a rassegnare tutto voi stesso nella mano di cotal nemica o per sempre abbandonare l'arengo. Proclamo che mai in vita mia mi sono sentito toccare così. Dio ti ringrazio in quanto autore dei miei giorni. Tre volte beato colui su cui una sì amabile creatura riversi i suoi favori. Un affettuoso sospiro rese queste parole vie più eloquenti. E, riposto il medaglione in seno, si asciugò egli gli occhi e sospirò ancora. Oh, benefico disseminatore di benedizioni per tutte le tue creature! Quanto deve essere grande e universale la dolcissima tra tutte le tue tirannie che tiene a sé soggetto l'uom libero e il servo, il semplice garzone e il damerino polito, l'amante al colmo della passione sfrenata e il marito di più maturi anni. Ma in vero, signor mio, io divago, quanti imperfetti e variamente commisti son tutti i nostri piaceri sublunari. Maledicità! Esclamò angosciato. A Dio fosse piaciuto che per veggenza mi avesse sol suggerito di prender me col mantello protettivo. Il ciglio si inumidisce al pensiero. In tal caso, pur se si fossero riversati sette rovesci di piova, noi due l'avremmo tenuto in non cale. Mal mi colga, esclamò egli, battendosi la mano sulla fronte. Domani sarà un nuovo giorno e, per mille tuoni, mi sovviene di tal marchand de capote, Monsieur Poins, dal quale potrò per una livre provvedermi del più comodo mantello alla franciosa che mai abbia protetto bella dama dall'umor piovano. Su via, su via! Esclama le fecondateur, facendosi innanzi. Il mio amico Monsieur Moore, il più compito tra i viaggiatori, ho pur ora reso giustizia avec lui a una mezza bottiglia nella cerchia dei più begli spiriti della città, mi autorizza ad affermare che al capo Horn, ventrebiche, si dà una tal pioggia da trapassar qualsivoglia mantello, anche il più spesso. Un diluvio di simile violenza, egli mi dice, sans blague, ha spedito di gran carriera più di un tapino al mondo della luce. Pua! Una livre! Grida Monsieur Lynch. Un sou sarebbe già troppo per quei goffi arnesi. Un ombrello, ancorché non più grande d'un fungo da fata, val bene 10 di questi tappabuchi. Nessuna donna che non abbia smarrito il senno consentirebbe a rivestirsene. La mia cara Kitty mi ha detto oggi che danzerebbe sotto un diluvio anziché morire di stenti in cotale arca di salvazione, perciò che, come ella mi risovvenne, imporporandosi maliziosamente e mormorandomi all'orecchio per quanto ognuno potesse cogliere a volo le sue parole se non qualche farfalla assordita, Madre Natura, per grazia divina, ha inciso nel nostro cuore ed è poi venuto in proverbio che il y a deux choses per le quali l'innocenza del nostro vestimento naturale, che in altre circostanze offende la costumatezza, è il più acconcio, anzi, l'unico indumento. La prima, ella disse, è qui la mia gentil filosofa, mentre l'aiutavo a salire nel suo tilbury. Al fine di carpire la mia attenzione, gentilmente sfiorò con la lingua la cavità esterna del mio orecchio. La prima è un bagno. Ma a questo punto una campana che risuonava nel vestibolo tagliò corto quel dire che si prometteva così copioso di arricchimenti del tesoro delle nostre cognizioni. In mezzo alla sciolta ilarità di tutta l'assemblea risuonò una campana. E mentre tutti stavano congetturando quanto alla causa, Miss Callan entrò e, rivolte alcune parole a voce bassa al giovane Mr. Dixon, si ritrasse con una profonda riverenza a tutta la compagnia. La presenza, seppure per un solo istante, in mezzo a una accolta di scavezzacolli, di una donna dotata di tutte le grazie della modestia e non men severa che bella, pose un freno ai lazzi arguti perfino dei più licenziosi, ma la sua dipartita fu il segnale di un'esplosione di turpiloquio. Ch'io possa accecare, disse Costello, un vil figuro dalla mente annebbiata. Che bel pezzo di vacca! Scommetto che ti ha dato un rendezvous. E che, care che non sei altro, sai forse come prenderle? Per dinci, Diana, in verità è così, disse Mr. Lynch. Sono le blandizie del capezzale che usano all'ospizio della mater. Dio mi fulmini! Il dottor O'Gargoyle non tocca forse il ganascino alle monache? Quanto è vero che spero nella salvezza eterna, l'ho saputo dalla mia Kitty, che da ben 7 mesi attende i miei malati. Misericordia divina, dottore! Gridò il farfallino dal panciotto color primula, fingendo un risolino femminile e in modeste contorsioni del corpo. Che scherzi sapete fare? Che lo colga il malanno! Dio mi benedica, son tutto un tremito! E che siete peggio del caro padre, baciami, baciami, siete. Possa questa coppa andarmi di traverso, esclamò Costello, se non ha fatto le male fini. So d'una signora che si gonfia a vista d'occhio, basta che io la guardi. Il giovane chirurgo comunque si levò in piedi e pregò la compagnia di scusare la sua dipartita, poiché l'infermiera l'aveva giusto allora informato che vi era necessità di lui nella corsia. La misericordia della provvidenza s'era degnata di por fine alle doglie della signora che era enceinte, da lei sopportate con lodevole forza d'animo, ed ella aveva dato alla luce un gagliardo maschietto. Mal sopporto, disse, coloro che, senza spirito per vivificare o dottrina per istruire altrui, insozzano una professione che nobilita e che salva la reverenza dovuta alla divinità, è la più grande potenza generatrice di felicità sulla terra. Non esito a dire che se fosse d'uopo potrei produrre un nugolo di testimoni dell'eccellenza delle sue nobili funzioni, le quali, lungi dall'essere oggetto di scherno, dovrebbero costituire nobile incentivo nel cuore di ognuno. Mal posso sopportarli. E che? Dir male di lei, l'amabile Miss Callan, che ha il vanto del suo sesso e lo stupore del nostro. E ciò nell'istante più decisivo che possa essere dato in sorte ad una misera creatura d'argilla. Perisca chi osa pensarlo. Rabbrividisco al pensiero del futuro d'una razza in cui siano stati seminati i germi d'una simile malizia e che non rende i dovuti onori né a madre né a vergine nella casa di Horn. Avendo dato sfogo a queste rampogne, salutò i presenti e raggiunse la porta. Un mormorio di approvazione sorse da ogni lato e alcuni erano dell'avviso di cacciar fuori quella vile spugna senza por tempo in mezzo, il qual disegno sarebbe stato messo in atto, né egli avrebbe ricevuto più di quanto meritasse, se colui non avesse troncato il suo dire offensivo affermando con un'orrida imprecazione, poiché era gran bestemmiatore, di essere una buona pecorella del fedele gregge, semmai una ve ne fu. Infilzatemi le budella, disse, se non son sempre stati questi i sentimenti dell'onesto Frank Costello, tirato su coscienziosamente col precetto di onorare il padre e la madre, la quale non aveva l'eguale per i cannoli alla marmellata o la panata, che mi ricordo sempre con un cuore affezionato. Torniamo dunque a Mr. Bloom, che, dopo il suo primo ingresso, era stato consapevole di qualche impudente ironia da lui peraltro tollerata come frutto di quell'età cui comunemente si addebita a difetto il non conoscere pietà. I giovani bellimbusti, a vero dire, erano pieni di stravaganze come fanciulli cresciuti anzitempo. I termini che volavano nelle loro tumultuose discussioni male erano compresi e spesso non ben discriminati. La loro salvatichezza e i mo' oltraggiosi erano tali che il suo intelletto li aborriva. Né erano coloro scrupolosamente osservanti della decenza, per quanto l'abbondanza di vivaci spiriti animali parlasse in loro favore. Ma l'eloquio di Mister Costello gli suonava sgradevole all'orecchio, perché fieramente lo disgustava quel miserabile che gli appariva quale una creatura orecchiuta, difforme e gibboso, generato fuor del nodo nuziale, e venuto alla luce già a gobbo e con tutti i denti e piedi in avanti, la quale supposizione era confortata dal segno dei ferri del chirurgo sul suo cranio, così da richiamargli alla mente quell'anello mancante nella catena della creazione, auspicato da quel bell'ingegno che fu Mr. Darwin. Era già oltre il mezzo del cammin di nostra vita e aveva trascorso gli anni toccatigli in sorte tra le mille vicissitudini dell'esistenza, ed essendo inoltre di schiatta prudente ed egli stesso uomo di rara preveggenza, aveva sempre ingiunto al proprio cuore di reprimere ogni sia pur minimo moto di collera nascente, e intercettandolo con la più sollecita precauzione, aveva studiato di nutrire in seno quella pienezza di tolleranza di cui si fan beffa le anime vili, che gli sconsiderati hanno in dispregio e che tutti trovano sopportabile e soltanto sopportabile. A coloro che si procacciano il nome di begli spiriti a danno della delicatezza della donna, un abito mentale che mai gli era stato proprio, a costoro mai avrebbe concesso d'assumere il nome o ereditare la tradizione d'una civile educazione, mentre che per coloro i quali, avendo dimesso ogni tolleranza, non possono più perdere nulla, rimaneva l'amaro antidoto dell'esperienza, sì da costringere la loro insolenza a ingloriosa e precipitevole ritirata. Non che egli non comprendesse i moti dell'anima d'una focosa gioventù, la quale, mal sopportando mutrie di vegliardi e rampogne d'austeri catoni, sempre incline, secondo l'espressione della casta fantasia del sacro autore, a mangiare del frutto dell'albero proibito, non tuttavia trascorrendo in alcun caso oltre i limiti della civiltà nei riguardi di nobil dama che adempia alle sue legittime funzioni. Per concludere, benché dalle parole dell'infermiera avesse inferito un rapido parto, fu, tuttavia, non si può non riconoscerlo, non poco sollevato all'apprendere che l'auspicato esito, dopo sì aspro cimento, attestava ancora una volta la misericordia, oltre che la generosità, dell'essere supremo.